oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. E allora, oltre la crisi, parliamone. Mercoledì 22 gennaio, luna in punto, il tocco, le 13:00, il momento di dare il benvenuto al professor Francesco Campione e a Francesca Clementoni, il dinamico duo della trasmissione Oltre la crisi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno anche da parte mia. Ah, meno male. ci sono. Okay. Dormo in piedi, ma ci sono. Ah, però, mamma mia, direi che quest'ora però è ingiustificabile, un essere addormentato. Per quanto tu mi sgridi, che sono troppo severo, quest'ora è un po' ingiustificabile, però insomma. Hai ragione, ma va così. Allora, riprendiamo il filo della trasmissione della settimana scorsa. Si parlava di disagio esistenziale, vero Willy? Sì. Ricordi che si parlava di disagio esistenziale? Assolutamente, e non di depressione. E non di depressione. E anche se tutti ne parlano come depressione, ma noi invece lo vogliamo definire bene, come ce l'ha definito Francesco la settimana scorsa. Abbiamo promesso ai nostri ascoltatori, anche a noi stessi, di andare nel merito delle questioni, perché abbiamo parlato in generale di lavoro, che vuol dire tante cose, e oggi invece vogliamo cominciare a scendere nelle varie sfaccettature. E uno dei ragionamenti che si faceva era sul discorso dello status di cassa integrazione. Ci sono tante persone anche al nostro ascolto che si trovano in questa situazione. Voglio fare una premessa: lungi da noi metterci qui a discutere sul valore o meno di questo istituto, assolutamente non siamo dei sindacalisti, non ci interessa andare nel merito del utilità o meno della cassa integrazione, non oppure abbiamo né il ruolo né le competenze. Esatto, per cui proprio lungi, noi ne vogliamo proprio parlare dal punto di vista dell'impatto sull'essere umano. Quindi questo è il nostro focus, e quindi chiediamo a tutti di insomma seguirci su questa questione, non certo su una questione sindacale che va affrontata su altri tavoli. Quindi innanzitutto cominciamo a inquadrare la situazione di cassa integrato, una persona che comunque con lo stipendio parzialmente ridotto di più o meno si ritrova a casa in realtà per X tempo. Certo, allora direi che la dimensione psicologica del cassa integrato è in definitiva una forma di precarietà, cioè una precarietà che interviene a un certo momento della storia del rapporto col lavoro e che può essere più o meno accentuata, perché in fondo la cassa integrazione difende il posto di lavoro in un certo senso, no? Ed è questa la ragione per cui quello che sembra strano certe volte, i sindacati sono più a favore della cassa integrazione che non del salario minimo, perché la cassa integrazione in qualche modo è: ti paghiamo, ti integriamo in qualche modo qualcosa, in attesa che il tuo lavoro, per non far morire il tuo posto di lavoro, in attesa che la crisi si riprenda, così eccetera. Per cui, come dire, direi che il cassa integrato è come una specie la condizione del cassa integrato è come una medaglia con due facce. Una faccia è quella della precarietà e della debolezza economica. Il tuo stipendio si riduce, tu non sai come andrà a finire, cioè, forse poi il cassa integrato teme sempre poter perdere il posto del lavoro. E dall'altra parte però la cassa integrazione dà speranza. Dalla speranza che tu hai sempre la speranza, il cassa integrato in qualche modo è una specie di limbo dal punto di vista psicologico, per cui ne derivano tutte le conseguenze psicologiche delle situazioni ambigue, no? In cui tu non sei disoccupato, non sei sul lastrico perché riesci a sopravvivere, non non sai se il suo posto di lavoro si conserverà, però potrebbe non conservarsi o potrebbe conservarsi. Cioè, in definitiva, è come una situazione di incertezza globale, no? Da questo punto di vista, dal punto di vista psicologico, noi abbiamo tutti i problemi che ci sono, che si incontrano quando si deve gestire un'incertezza. Quando si deve gestire un'incertezza, il problema fondamentale è la gestione di un'insicurezza che però ha sempre una speranza, quindi non puoi cambiare, voltare pagina. Perché se volti pagina perdi la speranza, se dici basta, mi licenzio, voglio cercare un lavoro, in un altro lavoro, in una situazione di questo genere, cadi, puoi cadere peggio. Se stai lì, non sai mai se domani il tuo posto di lavoro lo perderai o no. Da questo punto di vista, come dire, come tutte le situazioni di incertezza, dal punto di vista psicologico, è estremamente inquietante. E nello stesso tempo, però, se si ha una maturità, una saggezza personale, così eccetera, è uno di quei periodi della vita. Io per esempio conosco casse integrati che in quel periodo lì della cassa integrazione hanno per esempio ripreso interessi che avevano dovuto abbandonare per il lavoro, hanno cominciato a guardarsi attorno chiedendosi se per caso nell'ipotesi che il lavoro si possa perdere non si possa poi recuperare la ricerca di un lavoro migliore, oppure si riprendono vecchie storie che sono state interrotte e così via. Quindi, in definitiva, ha tutti gli svantaggi e i vantaggi di una situazione di incertezza. Bene. Intanto, scusate se vi interrompo, vorrei dare i nostri riferimenti al nostro ricevitore di SMS, al 333-180-9494, ed è già arrivato un SMS che leggeremo a breve. Il nostro telefono fisso per partecipare in diretta invece a Oltre la Crisi, 051-34-6458. Dicevi che abbiamo anche una mail? Sì, certo, abbiamo anche la mail dalla puntata scorsa, amicidirivivere@gmail.com. Volete prendere un po' più comoda. Sì, infatti, brava Francesca, in questi momenti di corsa prendersela un po' più comoda, anche se arriva un SMS molto allarmante e anche abbastanza arrabbiato. Noi abbiamo detto che non ci mettiamo filtri, per cui lo leggiamo. Allora, inizia così: la sinistra ladra, la pseudodestra collusi con la mafia, la chiesa pedofilia e plutocrate, Berlusconi ancora in giro, se uno è anche in cassa integrazione, fate vobis. Ecco, quindi il panorama che sta facendo il nostro ascoltatore, che innanzitutto ringraziamo tantissimo, e se per caso è capitato sfortunatamente in questa situazione, io gli mando tutta la mia solidarietà e un grande abbraccio e un buona fortuna sincero di tutto cuore di potersi riprendere al più presto. Adesso purtroppo noi solo a parole possiamo partecipare, però cerchiamo di farlo con il nostro meglio. Diciamo che di tutta la prima parte che citava il nostro ascoltatore nell'SMS se ne occupa più o meno tutto il resto della programmazione della radio, sì. Quantomeno per quel che riguarda l'informazione. Posso anche condividere sentirmi vicina a questo. Un buon 90%. Poi mi fa piacere che comunque anche questo è la nostra trasmissione, ovvero un momento dove magari lanciare uno sfogo così. Appunto, esatto. Sfogatevi. Esatto. Sì, sfogatevi. Anche contro di noi. Ma sì. No, ma posso dire una cosa? Dai. Allora, secondo me, io, come dire, inviterei questa persona a cambiare l'ultima parte. Cioè, dice, se uno è anche in cassa integrazione, dopo tutto quell'elenco di sfighe, no? Sì, sì. Io direi che si potrebbe anche dire se uno non ha neanche la cassa integrazione. Se ci sono tutte quelle sfighe là, Berlusconi ancora in giro, eccetera, eccetera, e poi non ha neanche la cassa integrazione, cioè voglio dire che c'è ancora di peggio. Quindi sfogatevi pure, però finché vi sfogate non toccando il peggio, si vede che ancora non siamo arrivati al fondo. Perché poi c'è ancora di peggio, che c'è di peggio di non avere né lavoro né cassa integrazione. No. Né nessuno che ti aiuta attorno, perché la sfiga vera è quando uno resta solo con i suoi bisogni assolutamente impossibili da soddisfare. E ci arriveremo comunque, arriveremo anche a questo, ringraziando chi ha rotto il ghiaccio, sì, per oggi infinitamente, con l'SMS. Io direi che possiamo intanto andare in musica, così li lasciamo come riflettere, vuoi, un attimo, mandarci delle altre suggestioni, sfoghi o suggestioni o esperienze, se c'è qualcuno che vuole raccontare il suo status di cassa integrato, di cassa integrato, o di persone vicine che sono in questo limbo, come l'ha definito Francesco. Here come the man cars, and it's damn near dawn. Another shift of men, some of the my friends coming on. Hard to imagine I'm working in the mines, the coal dust in your lungs, on your skin and on your mind. Yes, and I've listened to the speeches, but it occurred to me politicians don't understand. Of isolation, ain't no sunshine underground. Well, it's like working in a graveyard 3 miles down. Damn near religion, as old as the mines. The things that happen in the pits just don't change with the times. Work till you're exhausted in too little space. A history of disastrous fears etched on your face. Somebody signs a paper, everybody thinks it's fine, but tapped in a heartbeat, done a one day in the mind. You start to stiffen, you heard a cracking sound. It's like working in a graveyard 3 miles down. Di Oltre la Crisi, un grande esempio, poeta, scrittore, musicista, insieme a Brian Jackson al flauto traverso, per brani meravigliosi come questo 3 Miles Down che abbiamo ascoltato riaccompagnando il rientro in diretta con Willy sugli scudi. Sì, Will sugli scudi. Impetum negativum, è il secondo messaggio. Caro prete, la mancanza di reddito rende cinici in senso greco, ma il caderci è deprimente. Will sugli scudi e poi dice, ma la tua collega rende un plus non indifferente. Quindi oh, sei del te... plus non me l'aveva mai dato nessuno. Sei te l'MVP della situazione. Sono... Allora, io sono... sono estasiata da questo complimento. Spero che sia un complimento. Certo. Ma è un complimento. Te lo faccio io. È plus che un complimento. Esatto. Io sono intanto d'accordo sul plus, quindi sull'ultima parte sono d'accordissimo. Anche sulla prima parte, sul prete, sono d'accordo. In effetti è un po' pretesca la mia posizione qui, in effetti. Però qualche prete ci vuole qualche volta, o qualche pompiere, no, perché sai. L'altra questione sul cinismo. Ecco, questo invece mi dà lo spunto per dire a questo nostro interlocutore, intanto ringraziarlo, che c'è un bellissimo libro, noi magari così io faccio il professore, no? C'è un bellissimo libro di un filosofo tedesco che si chiama Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk, che è stato tradotto, appena tradotto da pochi mesi in italiano per la Raffaello Cortina, che si chiama La critica della ragione cinica. Della ragione cinica. Cinica, il cinismo. Il cinismo. In questo libro, Sloterdijk distingue tra due tipi di cinismo. Il cinismo, che è quello di chi perde ogni fiducia nell'umanità e nei valori appena perde il reddito o appena ha una sfiga. E poi il chinismo col K, no? Che invece è una forma di cinismo, che è quella forma di cinismo che potrebbe servire a agli sfigati di ogni epoca, che è quella di chi dice: va bene, sono disoccupato, sono cassa integrato, non mi vuole nessuno, ma ci cacco sopra. E così abbiamo... Ci cacco sopra. Perfetto. È una forma di cinismo che era tipicamente quella del filosofo Demostene, il quale, per prendere in giro i luoghi comuni del tempo, del suo tempo, cacava, pisciava e si masturbava nell'agorà ateniese. Beh, cioè questo... in piazza. Come si chiamava questo? Si chiama Demostene, quello che quel filosofo che cercava l'uomo con la lanterna. È vero. Era il cinico, il filosofo del cinismo. Ora, su questo io vorrei dire al tipo che ci ha che lui è un prete lui di fronte a questo, perché non distingue tra cinismo e chinismo. Il chinismo è una forma di protesta, di rabbia, così eccetera, che siccome non si usa più abbiamo perso una possibilità. Bisognerebbe usarla. Se tutti i cassi integrati andassero a cagare dove dico io contemporaneamente, il mondo cambierebbe. Nel senso, questa è l'ultima, non l'ho capita. Eh beh, bisognerebbe prendere provvedimenti, almeno dal punto di vista... a cagare, non nel senso del insulto, vai a cagare. No, nel senso del... Questo è puramente dialettale. Quello è puramente dialettale, vai a cagare, è puramente dialettale bolognese. Se tutti i cassi integrati contemporaneamente andassero a cagare a Piazza Montecitorio, d'accordo, succederebbe qualcosa. No, perché scusa, era fraintendibile. Si farebbe grossi affari Venturi Autospurghi a quel punto. Per andare a pulire, sì, beh, sarebbe una cosa interessante. Il cinismo, c'è il cinismo che è una cosa, è una conseguenza terribile della sfiga, e c'è il chinismo che invece è una conseguenza filosofica. Prenderla con filosofia vuol dire anche cominciare a sbattersene, cominciare a smettere di fare le persone per bene e protestare come si deve protestare quando è il momento. Intanto, quello che noi abbiamo, questo nostro prenditi questa da prete, caro prete, caro Don Francesco, ormai è anche un nome biblico, esatto. Quello, il signore che noi abbiamo chiamato Will sugli scudi, in realtà ci dice che si chiama Andrea, e dice: ma dentro la botte stava indicando la verità esistenziale dell'uomo. Benissimo, ecco, benissimo. Siamo quindi. La risposta è una risposta esatta. Ha capito tutto. Grazie Andrea. Ecco, intanto era arrivato un messaggio: oggi siete pesanti, ma ho scoperto che era riferito a un'altra trasmissione. No, oggi siete pesanti, se l'è beccato il Moro. Esatto, oggi. Infatti. Salutiamo, sei in ascolto, però, Gianluca Morozzi e Moreno Spirogi. Era ancora attivo il WhatsApp. Non eravamo noi. Facciamo in tempo a diventarlo, però. Certo, potremmo sempre mettere i Pooh, no? Sì, visto esatto. Che si riferiva ai Pooh. Va bene, io vorrei leggerti una mail di tal Laura che tempo fa scriveva questo, per ritornare a bomba al nostro quid. Oggi dopo 20 anni di lavoro in azienda si è parlato di cassa integrazione. Lo so che ci sono passati tutti, ma a me fa venire l'ansia, non ci posso pensare, panico totale. Mi piacerebbe poter dire dai, ok, passerà anche questa, ma proprio non ce la faccio, mi butto giù, mi deprime questa insicurezza. Ed è esattamente quello di cui vorremmo ragionare, perché da un lato ci sono tutte le sensazioni, è una sorta di bipolarismo emotivo, nel senso che da un lato ci sono tutte le sensazioni positive della speranza, come dicevi tu, e quindi quelle legate alla visione di risoluzione di una crisi, mentre invece dall'altra parte c'è questo stato d'animo che si altalena con c'è il timore di non poterla superare, di invece perdere tutto. Certo. E infatti, come dire, l'aiuto di cui si avrebbe bisogno in una condizione di questo tipo, condizione psicologica appunto così difficile, è proprio l'aiuto per far prevalere la speranza, le ragioni della speranza sulle ragioni della disperazione. Come si possa fare questo, credo che sia il punto più delicato e difficile. Io credo che ci siano soltanto due mezzi a disposizione oggi, e cioè parlare con qualcuno che sappia ascoltarti e che sappia aiutarti a non a fare in modo che la tua crisi non si approfondisca, che sappia sostenerti. È quello che facciamo noi, per esempio, col nostro servizio col 1° maggio, no? Quando uno seguiamo anche molte persone che non hanno ancora perso il lavoro, ma che temono di perderlo, perché c'è anche il lutto anticipatorio per la perdita del lavoro, no? D'accordo? E qui c'è una possibilità di sostegno. L'altro fattore importantissimo è la solidarietà che uno ha attorno a sé. Se ha solidarietà attorno a sé, le ragioni della speranza possono prevalere. Se non ha solidarietà attorno a sé, c'è il pericolo che le ragioni della disperazione superino quelle della speranza. Quindi un punto importantissimo per chi si trova in questa condizione è avere amici, avere famiglia, avere affetti, avere sostegni umani in un periodo come questo, in un frangente. Quelli che ce la fanno nelle situazioni in cui potrebbero cadere nella disperazione, quelli che ce la fanno e non vengono dominati da quello stato d'animo di cui si parlava prima, sono le persone che hanno attorno a sé una rete di solidarietà umana, comunque costituita. Naturalmente ci sono anche le reti di solidarietà, come dire, aberranti. Per esempio, ne cito una per tutte: sì, la rete di solidarietà del partito nazista per i disoccupati in Grecia, la rete di solidarietà degli estremisti islamici legati alla jihad nei paesi arabi. Sono reti di solidarietà che ti stanno, però cosa ti chiedono poi in cambio? Un'adesione a un mondo. Ci sono anche queste cose, però quello che conta, per questo, come dire, i due fattori, l'aiuto per lavorare su di sé e la solidarietà attorno, andrebbero associati in queste condizioni, per affrontare questa situazione e far sì che nel tempo in cui tu devi aspettare perché l'incertezza della cassa integrazione si superi e si sappia se il lavoro l'hai perso o ne devi cercare un altro o se il lavoro l'hai mantenuto, in quel frattempo la distruttività di una situazione, perché quella situazione è distruttiva, la distruttività della situazione di incertezza non provochi dei danni irreparabili, per cui tu poi superi il problema dal punto di vista economico, ma sei distrutto dal punto di vista psicologico e umano. Tu prima parlavi di lutto anticipato, ci vorrei tornare un attimo, perché in effetti per quanto possa essere drammatico un lutto, sia in senso proprio che, noi, che in senso lato, come in questo caso, però si mette lì, passata la botta, come si dice, poi rimette in moto strategie per una sorta di uscita da questo tunnel. Mentre il lutto anticipato è una sorta di lutto che non ti permette di elaborarlo, mi verrebbe da dire, perché comunque si reitera tutti i giorni e rimane lì. Da una parte questo è vero, cioè se questo è finché il lutto anticipatorio dura. Certo. Finché il lutto anticipatorio dura, tu sei nella situazione di incertezza. Però potresti essere aiutato a prepararti a quello che ti potrebbe avvenire. E questo è un vantaggio dell'essere consapevoli del fatto che sei in un lutto anticipato. Per esempio, ci sono tante persone che, come dire, invece di coltivare l'illusione che il loro lavoro lo manterranno, no? Fanno un'analisi più concreta e accurata della realtà e sanno che lo perderanno dopo un po' e si preparano, il che vuol dire si guardano attorno, non stanno fermi, fanno un corso, parlano con qualcuno, si procurano altre competenze, cioè usano il periodo della cassa integrazione non per piangersi addosso, ma per prepararsi alla condizione della perdita del lavoro. Da questo punto di vista direi che ci sono, come dire, ci sono anche vantaggi nell'essere consapevoli che potrebbe essere un lutto anticipato. Il sapere che tu, per esempio, ci sono tantissime persone che ci sperano e dopo lo perdono. E ci sono tanti che fanno l'analisi più accurata e dicono, ma tanto l'ho perso. Cioè come quelli dell'Alitalia. Dici, sai, lo conserveremo. No, l'hai perso. Lavoro, l'hai perso. Lo perderai certamente fra un po', non ti illudere. Questo può essere un vantaggio. E quando invece l'epilogo non è così chiaro? Quando l'epilogo non è così chiaro, il vantaggio è nella situazione di incertezza. Cioè tu quando la situazione è incerta, che non sai come va a finire, sei più libero. Nell'incertezza sei più libero. Cioè nell'incertezza non è la realtà che decide quello che succederà. Siccome quello che succederà non lo sai, puoi decidere quello che vuoi. Puoi anche avere un po' di speranza. Certo, puoi avere un po' di speranza, ma soprattutto puoi decidere quello che vuoi. Certo. Sei più libero, perché non c'è una realtà che chiaramente ti dice questo, succederà quest'altro. Da questo punto di vista la nostra cultura non aiuta però, perché la nostra cultura è una cultura basata sul conoscere le cose prima, in modo da poter prevenire o da potersi preparare. No, da questo punto di vista c'è un problema educativo. Per esempio noi, siccome ci sono un tot di situazioni incerte nella vita, uno si ammala e non si sa se guarirà o no, uno ha la cassa integrazione, non lo sa se il lavoro lo... In tutte queste situazioni bisognerebbe essere educati a viversi gli aspetti positivi dell'incertezza. Per esempio nella situazione di incertezza, quando non si sa come andrà a finire, è il momento per godersi la vita giorno per giorno. Why not? Perché no? Intanto ci godiamo un brano musicale, pubblicità e sì, torniamo in diretta. Ricordiamo i numeri. Pronto? Perché mi sa che ecco. Io il fisso e tu il mobile. 051 3464 58 per partecipare oltre la crisi e dal ricevitore di SMS o WhatsApp. 333 180 94 94, oppure la mail amicidirivivere@gmail.com. A fra poco. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, he was. Me so 10:36 minuti, mercoledì 22 gennaio. Io manderei un saluto particolare a Emanuela, non so perché. Proprio... Eh sì, perché ognuno c'ha i suoi fan. Se io avevo il plus per Andrea, vedi. Manuela ha scritto: geniale Willy, bella scelta musicale. Quindi grazie, Emanuela. Mi tocca dirlo per dovere di cronaca. Vabbè, tu ti puoi riprendere. Abbiamo messo su assieme Massimo Ranieri, abbiamo fatto tante realtà. Ecco, perché devi ricordare me solo in questi frangenti? Perché hai elevato, no? Con certo. Massimo Ranieri la selezione musicale. Va bene, allora il plus adesso cerca di andare avanti. Stiamo parlando di cassa integrazione, ricordiamo i nostri numeri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Non posso credere che non ci chiami qualcuno. Ha chiamato Selene, però non penso che... Anzi, non è ancora cassa integrata. La salutiamo, anzi, ciao Selene. La salutiamo e ricordiamo appunto i nostri numeri: 051 34 64 58, se volete intervenire in diretta e chiacchierare con noi, oppure 333 180 9494 per il nostro ricevitore di SMS. Esatto. E poi c'è anche la mail amicidirivivere@gmail.com. Allora, a che punto siamo rimasti? Mi sono persa. Eravamo rimasti al lutto anticipatorio. L'abbiamo detto. Ah, no, ecco cosa volevo chiederti. Perché tu prima hai parlato di rete sociale, di solidarietà. Parlavi, sì, di amici, parlavi di... Molto spesso, perché vogliamo parlare anche appunto a quelli che dovrebbero comporre la rete di questi cassintegrati e che forse si trovano in difficoltà, perché spesso affrontare una persona che ha un problema, che magari quando si esce parla del suo problema lavorativo o magari è triste, certo, eccetera, porta spesso all'allontanamento della rete anziché al fatto che si stringa intorno alla persona. No, ma io mi riferivo, certo, questo è il problema. Queste sono, come dire, le reti che si costruiscono attraverso le relazioni personali. No, io mi riferivo alle reti di solidarietà sociale, che non andrebbero subordinate alla vicenda dei rapporti personali. Perché uno può essere simpatico, un altro può essere antipatico, tutti i cassa integrati antipatici, se affidato solo a loro, non avranno nessuna rete attorno a sé. No, tutti quelli simpatici sì. L'idea mia è invece che, come dire, siccome il problema della perdita del lavoro non è una cosa che uno si procura da sé, ma è la conseguenza di processi sociali, spessissimo, per esempio, è la conseguenza della ingiusta distribuzione delle ricchezze, prima di tutto, è la conseguenza della speculazione finanziaria, è la conseguenza della vicenda dei mercati, per cui una volta in Europa va bene, l'altra volta va più meglio in Cina. È una vicenda nella quale tu vieni coinvolto quando rischi di perdere il lavoro e vai in cassa integrazione, quando il tuo lavoro diventa precario o anche quando lo perdi, è una vicenda che non ti sei procurata tu, per cui non hai colpa. Io la metterei alla stregua della malattia. Così come c'è un diritto di essere aiutati, un diritto alla salute, c'è un diritto al lavoro. Ci dovrebbe essere, almeno nelle nostre culture c'è. Allora, nel momento anche nella Costituzione, anche Croce, diciamo che forse ci ricordiamo bene. Finché dura. Ecco, allora, io mi riferivo alle reti di solidarietà che nei periodi di crisi dovrebbero essere costruite da ogni società per venire incontro ai bisogni di chi, per qualche ragione, non dipendente dalla sua volontà. Poi se è dipendente dalla sua volontà che uno si licenzia o è stato... è un'altra storia. Ma nella maggior parte dei casi la precarietà del lavoro o la difficoltà di trovarlo è dovuta a processi che sono processi globali, processi che non hanno a che fare. Allora, per questo si dovrebbero costituire reti di solidarietà. E direi che di queste reti di solidarietà il problema è perché non si costituiscono? Cioè, facciamoci questa domanda. Oppure perché le reti di solidarietà sono basate sugli interessi? Io penso, per esempio, che le reti di solidarietà per sostenere chi è in cassa integrazione o chi ha perso il lavoro dovrebbero essere reti di solidarietà trasversale rispetto agli interessi. Cioè, quando in una società ci sono migliaia e migliaia di persone, quando ci sono il 40% dei giovani che non trovano lavoro, quella società è una società malata. E quella malattia di quella società si ripercuote su di tutti, ricchi o poveri che siano, fortunati o sfortunati che siano, belli o brutti, giovani o vecchi, si ripercuote. E il 40% dei giovani che non trovano lavoro è una malattia di una cultura. Quella malattia, di quella malattia, chi se ne deve occupare? Tutti. Se ne deve occupare tutta quella società. Purtroppo invece accade che, siccome costano le reti di solidarietà, scoppia una guerra tra chi quelle reti di solidarietà le deve sostenere economicamente. Lo Stato non ha soldi, i privati o sono filantropi, oppure se non sono filantropi pensano ai loro interessi. Tra gli stessi cassi integrati ci sono conflitti di interesse. Perché un cassa integrato, uno che rischia di perdere il lavoro e va in cassa integrazione e ha tre case e la moglie che lavora, non è lo stesso di uno che non ha niente, che va in cassa integrazione, non ha niente e non ha neanche la moglie o il marito che lavora. Per cui ci possono essere, si determina tutta una, bisognerebbe andare oltre. Come si fa nella malattia, per esempio, che si va oltre l'essere ricchi o poveri, oltre gli interessi, bisognerebbe andare oltre anche in questo caso. Solo così si potrebbero costruire le reti di solidarietà. Dopodiché sarebbero, per esempio, costruite da i sindacati, gli imprenditori, gli psicologi, i filantropi, i santi, i preti. Però, scusa, ho capito, però intanto non ci sono. Certo, ma senza di quelle è uno sfacelo. Quindi abbiamo i cassi integrati condannati alla, come direbbe Willy, depressione o disagio, diciamo, perenne? Diciamo che alcuni si deprimono, certamente, cioè c'è una distruttività, io la chiamerei distruttività, perché... è una distruttività che può portare al fatto che uno beve, può farti litigare con i figli, con la famiglia, può abbassare l'autostima, può arrivare alla depressione, puoi arrivare a comportamenti distruttivi, nel senso che diventi violento, ti arrabbi, oppure autodistruttivi, nel senso che te la prendi con te stesso, perché e così via. Ora, tutti questi comportamenti distruttivi, chi ha la responsabilità di affrontarli? Tutti noi. Allora, questo secondo... Adesso ti leggo un messaggio che va proprio nell'obiezione che ti ho fatto, va in quella direzione. Che fare? Crocifisso del Bernini in casa del vescovo Viveur. Siamo soli? Nel dolore, nelle pene, siamo globalmente connessi nella nostra solitudine. Di conseguenza, non c'è lotta di classe, è quella a cui appunto ci chiama, ci invita, che è poi anche in parte quello che dicevi tu, e conferma il suo plus, grazie, quindi siamo 2-1, scusate. Accidenti, dai Emanuela, forza, scrivi. No, volevo, perché questo è il discorso, cioè noi facciamo questa trasmissione perché vogliamo... andare oltre appunto, certo, questa solitudine che dice Andrea. Certamente. Allora, se io sono una cassa integrata e la rete di solidarietà non c'è, quella che auspicheresti tu, fatta nel modo che dicevi, che faccio? Sì, il problema è, facciamo un'analisi del perché non c'è e cerchiamo di capire cosa fare perché ci sia. Cioè, ecco, io direi che la dobbiamo impostare la cosa in termini fattivi, non la dobbiamo impostare in termini di solo di lamentela. Certo, no, d'accordo? Chiaro. Allora, non c'è e quindi ci deprimiamo ancora di più. No, appunto, arrivare a questa, a questo risultato, a non questa c'è, soluzione. Ma il problema è che noi lavoriamo per costruire qualcosa, in questo caso la rete di solidarietà, se pensiamo che sia qualcosa di possibile. Se pensiamo che sia impossibile, non ci lavoriamo. Allora, dal punto di vista psicologico, secondo me, la cosa che bisogna sconfiggere è il pessimismo profondo che domina le nostre culture. Siccome ci vorrebbe quello, e siccome non si può fare subito, ci scoraggiamo e non facciamo più niente. Cioè, secondo me il punto di fondo è lavorare su quello. Il che vuol dire, ma chi è la, di chi è la responsabilità? Siccome è pesante quella responsabilità, ognuno cerca di scaricarla su qualcun altro. In realtà ognuno ha la sua quota di responsabilità. Se io, per esempio, come dire, quando sono in cassa integrazione faccio altri due lavori e li nascondo, è il periodo della cassa integrazione, è il periodo in cui guadagno di più nella mia vita, io, come dire, non sono un cassa integrato che può solidarizzare con gli altri cassa integrati. E appena lo scoprono mi no, è chiaro. Se io sono una persona che ci ha rinunciato a cambiare le cose, ecco, questo è il punto di fondo. Per i giovani, per esempio, questo vale molto. I giovani hanno rinunciato a cambiare le cose. Sì. Io faccio il professore universitario, continuamente i giovani mi dicono: tanto non cambia mai niente, tanto non si può fare niente. C'era un articolo l'altro giorno sul fatto che una quantità spropositata di giovani non cerca nemmeno più lavoro, non è depresso perché non lo trova. Sono non i cosiddetti scoraggiati, più. È la categoria degli scoraggiati, non ci provano neanche più. Ma questo però significa che se centinaia di migliaia, milioni di giovani non ci provano, vuol dire che tutte le energie di quei giovani per cambiare il mondo vengono meno, vengono messe in una specie di deserto, di zona franca, e non ce ne proprio non c'è nessuna speranza più. Allora il problema, secondo me, è il problema di sconfiggere il pessimismo. Non nel senso di dire va tutto bene, come dicono alcuni, non è vero che c'è la crisi, non nel senso del pensare positivo, sì, non in questo senso, ma nel senso del pensare che se è una situazione, che se c'è una situazione umana che riguarda tanti, è interesse di tutti che quella situazione venga modificata. Cioè, spessissimo siamo nella condizione tipica della barzelletta, che tu sei in una nave che sta su una nave che sta affondando, e appena ti dicono fai qualcosa, tu dici tanto la nave non è mia. Siamo in questa situazione. Siamo precisamente in questa situazione. Allora, io penso che la battaglia più urgente sia precisamente questa, quella di sconfiggere il pessimismo. Perché, in definitiva, quello che per esempio succede che se 10 casse integrati, 10, si mettono insieme le loro risorse per sopravvivere, sopravvivono meglio di quanto non sopravvivono a ciascuno per conto suo. Ma per mettere insieme tutte le risorse bisogna che non si facciano tanti conti, perché se io c'ho di più e metto un po' di più e tu c'hai di meno e metti un po' di meno e cominciamo a litigare per questo, è finita. Devo dire che da questo punto di vista mi vengono in mente le social street che stanno nascendo a Bologna. Allargo un attimo, non sono solo casse integrati, sono comunque vie che, dove ci sono cittadini diversi con esigenze diverse che hanno difficoltà differenti, però mettendo insieme ognuno il suo stanno ricostruendo una sorta di, appunto, rete sociale che in realtà appoggia e sostiene tutti quanti. E devo dirti che Andrea continua a dialogare con noi. Bravo. E dice: bravo. Nella lotta c'è comunicazione tra uomini, mentre la solitudine è l'obiettivo del sistema. Come non essere d'accordo? Ecco, però io direi ad Andrea che, noi veniamo da un secolo, il secolo scorso, in cui abbiamo provato a fare la lotta e a risolvere questo problema con la lotta, e ne siamo usciti con le ossa rotte. Quindi io inviterei Andrea a essere meno fiducioso nella lotta di classe, non perché la lotta di classe è un fattore, la lotta di classe, certo. Ma ora viviamo in un'epoca in cui, se speriamo nella lotta di classe, stiamo freschi. Cioè, nel senso, da sola così. Cioè, la lotta, allora il problema è effettivamente, per esempio, una delle grandi crisi è la crisi della lotta di classe che stiamo vivendo. Anche perché, appunto, il secolo scorso è il secolo del fallimento del comunismo e del socialismo. Non è che ce lo possiamo dimenticare. Il che vuol dire che probabilmente noi, dobbiamo trovare altre strade. altre strade. Per esempio, se anche i ricchi, anche quelli che hanno tanto, anche i padroni, come si diceva una volta, no? Se anche i padroni soffrono per la società malata che non è comunità, perché anche loro soffrono, no? Il problema non è di lottare contro di loro perché, sì, come diceva Marx, poi alla fine dei tempi avremo il comunismo, così, perché abbiamo visto che, come dire, c'è qualche problema rispetto a questo. No, il problema è di che si instauri una relazione umana tra ricchi e poveri, e torno a essere prete, ve lo dico subito, torno a essere prete, che si instauri una relazione umana tra ricchi e poveri, che si guardino negli occhi e che si dicano vicendevolmente che non è che c'è tanta differenza tra ricchi e poveri rispetto, quando viene il terremoto non c'è differenza tra ricchi e poveri, quando c'è la malattia non c'è differenza, quando si vive in una società malata non c'è differenza tra ricchi e poveri, non c'è differenza tra ricchi e poveri. Semplicemente i ricchi, come dire, hanno meno effetti collaterali, no? Certamente, non è che voglio dire. Beh, oddio, c'è anche chi sta godendo di questa società malata. Ma quelli non li chiamerei ricchi, li chiamerei speculatori. Siamo in un'altra categoria. Cioè, io quelli li chiamerei in un altro modo. Allora, il problema della lotta di classe è il problema. C'è stata un'epoca della nostra cultura, della nostra storia, in cui si è pensato che attraverso la lotta di classe si potesse. Questa idea è un'idea. È l'idea più sconfitta di tutte in questo momento storico. Io vorrei dire questo ad Andrea, di tener conto, non che non abbia più senso, ma ha un senso, il senso che storicamente, cioè secondo me dovremmo... Va accompagnata da qualcos'altro. Sì, che dovremmo prendere atto del fatto che, ecco, per esempio, come fai a fare la lotta di classe con quello che fa un click e sposta 1500 miliardi? Cos'è, che lotta di classe fai con uno così? Non gli dai il computer in testa. Non gli dai che senso ha? Che lotta di classe fai? Gli stacchi la spina. Gli stacchi la spina, bella. Bravo, gli stacchi la spina. Ma siccome però non sai manco dov'è la spina... No, hanno i gruppi di continuità. Sì, sì, ma però non si può fare la lotta di classe lì. Bisogna inventare delle cose nuove. Bisogna inventare qualcosa di nuovo. Cioè il problema è che quella idea lì è un'idea che ha avuto il suo corso, ci abbiamo provato, però storicamente abbiamo visto, stiamo vivendo proprio nell'epoca della crisi di quella tentativo lì che l'uomo ha fatto. No? Soprattutto perché è stato fatto di tutto per rendere più fluide le classi e quindi perdi anche l'obiettivo. Ma di per esempio rispetto al fatto che noi lasceremo ai nostri figli un mondo di merda, che differenza c'è tra ricchi e poveri? Tu sei ricco, ma per sopravvivere, per avere un po' d'aria buona, ti devi rintanare in un buco del culo del mondo con una villona tutta circondata da sensori e nessuno ci può entrare, tutto attorno ci sono le discariche, cosa te ne fai della ricchezza? Cioè viviamo in una cultura del rischio, per esempio il rischio ecologico, no? In una cultura del rischio che non risparmia nessuno, non ha nessun senso dividersi, gli umani, non ha nessun senso che si dividano sulla ricchezza, perché c'è ben altro. Arrivarci. Comunque, siccome Will sta per mettere su un brano, vero Will? Sì, sto per mettere su un brano bellissimo. Mi tocca di segnalarti il finale del messaggio di Andrea. Ai ai ai. Ai ai ai, che era musicalmente Will Ubi Maior. Minor cessato. Ah mio Dio. E poi ti dice: grande Will, stacchiamogli la spina. Stacca la spina e metti la musica. Ok, grazie mille. Stacca la spina a noi due. Però dopo rientriamo per i saluti o salutiamo adesso? Prepariamoci per i bene, saluti, tecnicamente. Dai. George Benson a voi? Salute Benson, rientrando in diretta alle 13:57 minuti. Siete sintonizzati con i 103.1 di Radio Città Fujiko. In conclusione, oltre alla crisi, arrivano i saluti. Oddio, aspetta, ci sono degli SMS. There is message. Oh yeah, intanto ringraziamo tantissimo, ecco, Andrea. Eh sì, parlo, perché tu col ricevitore di SMS sei un pochettino limitata. Avrai un plus in più, ma... Beh, intanto noi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, ovviamente sempre dalle 13 alle 14, insieme al professor Francesco Campione, per parlare insieme a voi al 333-180-9494 e per ricevere anche le vostre telefonate al telefono fisso, per essere in diretta veramente su Radio Città Fujiko, allo 051-34-64-58. Joe Sample on piano, George Benson alla chitarra e Francesca Clementoni al telefono cellulare. Sì, ho il telefono cellulare, ma mi sono persa. Allora, ecco, andiamo, leggiamo l'ultimo messaggio di Direi Andrea. Che siamo ampiamente però non in riusciamo, tempo. Al limite lo riprendiamo quest'altra volta. Ma riprendiamolo. Esatto, lo riprendiamo la prossima volta. Allora, lo teniamo qui, Andrea. Per poter rispondere meglio. Esatto. Intanto lo possiamo leggere, oppure facciamo tutto la prossima. No, la prossima. Facciamo la prossima. Intanto io voglio dire che io voglio oggi... non esiste neanche nel giardino. Allora, questa trasmissione sta diventando poco seria. Allora, io sono uscita col quid oggi. No, col plus. Col plus, mi sono incasinata. Hai avuto quel quid in più. Sì, esatto. Sono uscita col plus. Tu musicalmente Ubi Maior. Bene. Il nostro Francesco Campione ha preso i voti. È entrato in redazione incazzato come una lupa ed ne è uscito con l'aureola. Grazie ad Andrea. Missione compiuta. Direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori. Ringraziamo Andrea di aver dialogato con noi. E speriamo che continui. Sì, continuiamo, sì, a dialogare la prossima volta. La prossima, sì, volta. Anche perché aveva mandato due messaggi. Uno mi ha chiesto non in onda, l'altro era più esplicito. Allora devo anche capire che cosa leggere o cosa no. È stato un po' ermetico. Esatto. E quindi salutiamo tutti e ci diamo appuntamento per mercoledì prossimo con Oltre la crisi parliamone. Buon pomeriggio, ciao a tutti, restate ciao, su Radio ciao, Città ciao, Fujiko. Ciao. Oltre la crisi. Mi scrive. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.